quando perso nella casina. L'ultimo lavoro mi trita come io l'ultima cima. Non me ne mai fonte d'un cazzo della cima. Mi è sempre interessata di gran lunga Cina, saliva e stima. Sono il capitano panzerotto, la tua rima è chiusa nella stiva. In questa notte estiva, niente creatina, creatività inventiva. Monella, Arezzo, Sidi, è un paradosso, porta nuova disciplina. Faccio sta roba perché mi diverte, con gli amici, con nessuno, fino alle ore 7. Spiaggia a fumare secchi, perché quello che sarà immutabile nel tempo, frate, sono gli occhi riflessi agli specchi. Fotte niente del giudizio, monello indisponente sempre, fin da pischello, fin dall'inizio. Indifferente, ci piscio sopra e faccio centro come dentro i cessi. Con sti pischelli nada sentimenti. Ci penso un attimo, poi ancora uno. Riaffiori in testa, testa rossa, veloce, passo felpato. Mi si avvicina, ci sa fare mora, formosa. Ora nessuno, il club chiama, apro le danze, mi invita signorina nelle sue stanze. Faccio in tempo a chiudere luce e finestre, senza chiave, scassinatore, senza mutande. Ha già aperto le gambe, ma hai dimenticato un cazzo. Grezzo, elegante, lo schirio, flow, idrol, sax, brigante, omonimo. Street life è un'arte, la mia gente lo spinge da dietro le quinte. Sempre e comunque, urla la bionda e cnusa. Urla che tradito scusa, ma è dell'altra sponda. Supo dall'altra sponda, ci lascio la mia impronta. Scivolo su stonda, pura adrenalina, cura chi pensa sfonda. Lancio un messaggio a chi lo può capta, ogni granello di sta spiaggia un'isola, ma non pensa evade perché è una vacanza. Ringrazio Dio di non averne mai abbastanza di quest'arte, dei b-boy, della doppia H, di chi spera in un mondo nuovo, di chi ha un credo, di chi la spinge, di chi dice il vero. Con sta roba non si scherza, tanta pazienza, ma soprattutto di chi ogni giorno la ringrazia e non gli pare il vero. In questa vacanza mi sono innamorato, poesia, fantascienza, fatto che non sto più senza. Pensavi fosse amore, invece è solo dipendenza. Cogli l'essenza di sto fiore quando l'aria è densa. A stare troppo in stanza morirai prima della la speranza. Cresci senza avermi questa lenza e guarda che maria di pesci. Manco Sanpei, vorrei, potrei, tiro sulle maniche Mark Lenders nel modo più real possibile. La musica mi fa sentire Lenders. Prendo un altro serpente per chi dice un gioco, onomatopeiche poetiche. Bam bam.